L'altra Europa. Nasceva 15 anni fa Radio 24, era il 4 ottobre. Il 4 ottobre di oggi invece del 2014 siamo in diretta dal Festival d'Internazionale a Ferrara. Buongiorno a tutti e benvenuti per questa puntata speciale, ormai una tradizione essere qua con la rassegna stampa europea e non solo, un po' una giostra di ospiti che ci accompagneranno sul palco per questa oretta live. Do il benvenuto anche quest'anno a Giampaolo Accardo di Vox Europe. Ciao Giampaolo. Buongiorno. Sarà lui che sfoglierà per noi i quotidiani di oggi, le prime pagine europee. E poi Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, padrone di casa. Ciao Jacopo. Ti è rimasto, è rimasto qualche uovo dopo quelli lanciati ieri o li avete finiti? Li abbiamo finiti, ce li siamo lanciati l'un l'altro. Okay. Gigi Donelli invece, capo redattore di Radio 24, è anche il responsabile un po' di tutto ciò che riguarda l'Europa nella nostra emittente. Buon compleanno Gigi. Grazie Fede, anche a te buon compleanno a tutti e gli ascoltatori. E poi Giaba Ascego, scrittrice italo somala, va bene come definizione? Sì, buongiorno a tutti, o come si dice in somalo, Swahman Accent. Anche lei al Festival Internazionale fa tante tante cose. Poi quest'anno avremo anche una colonna sonora che ci accompagnerà. Lei è Kiss and Drive. I would like to walk your dogs on the shore. It's well behaved. I've been dreaming since a long time of taking her out with me. Up over the hills where the grass is green. Then down through the park and back to your spouse. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I would like to walk your dog, 'cause I'm sure it's well behaved. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. But I would like to walk your dog with you. Radio 24. Kiss and Drive, Elisabetta Spada, romana, vive a Bruxelles, cantautrice, ha scelto l'Europa come palco e appunto sarà la nostra colonna importante. Jacopo Zanchini e Gigi Donelli, la prima domanda è per voi, proprio per entrare subito in argomento, prima di aprire le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come sta l'Europa? Jacopo? Non bene, secondo me. Direi che l'Europa è sempre meravigliosa, ma diciamo da un punto di vista istituzionale mi sembra impigliata in questa nuova commissione che deve ancora partire e sembra già un po' grigetta a vedersi, e da un punto di vista politico mi sembra incagliata in questo dibattito austerità non austerità, crescita con la Germania sempre al centro, la Francia che fa finta di smarcarsi e non si smarca mai, i paesi del sud, l'Italia, la Spagna, la Grecia, che continuano a soffrire e a non riuscire a uscire, soprattutto l'Italia, da questa fase dolorosa. Mi sembra che è impigliata in questo dibattito e non sta andando avanti. Sembra un film già visto dalle tue parole. È così Gigi? Qual è la tua istantanea, la tua fotografia? Potrei dire non male secondo me, non così male secondo me a questo punto, perché vedo dei segnali che vanno sostenuti, vedo un grande finalmente dibattito. Ieri abbiamo ricordato un anno da un disastro umanitario immenso, l'Europa che naturalmente sbaglia continuamente, solleva però anche delle tematiche che sono quelle appunto di che politiche di accoglienza o di respingimento ma dobbiamo condividere. In questa settimana in cui abbiamo ascoltato le audizioni della Commissione, ci sono stati anche dei momenti abbastanza esilaranti, devo dire, e in realtà molto anche abbastanza noiosi, perché si sa come si svolgono queste cose. Abbiamo visto per esempio il primo commissario della generazione Erasmus. Ecco, allora diciamo un po' per completare, forse questo è lo stato inevitabile dell'Europa. E allora mi piace prendere questo lato di non così male. Di vedere il bicchiere mezzo pieno. Esattamente, visto che tu hai giustamente segnalato il mezzo vuoto. Giava, faccio la stessa domanda in parte anche a te, non come giornalista, ma più come narratrice, come scrittrice italo-somala ed europea. E anche africana. E anche africana. E per te l'Europa che cos'è? Cosa, che emozioni suscita? Allora, l'Europa è casa sicuramente, però ecco, io vorrei un'Europa più coraggiosa soprattutto sui diritti che mancano. Ieri era appunto il 3 ottobre e l'unica cosa che siamo riusciti a fare sono delle passerelle politiche, però abbiamo ancora Frontex che diventerà Frontex Plus, stiamo trasformando il nostro continente in una fortezza. Forse dovremmo avere più coraggio di riuscire a trovare una maniera legale per far viaggiare le persone, perché io lo dico sempre, i miei genitori questo paese sono venuti con l'aereo, non con il barcone, si poteva venire. Mio fratello ha studiato a Praga e quindi poi tornava a Mogadiscio. L'Europa potrebbe essere un centro di civiltà. Poi oggi, dopo 33 anni, insomma, non succedeva, oggi è sia la Eid per i musulmani e sia Yom Kippur. Quindi l'Europa potrebbe essere questo, un'Europa di civiltà, di cultura, di religioni e di meticciato. Non lo è ancora e forse dovremmo trovare il coraggio per trasformare l'Europa in questo. Dopo racconteremo anche quello che stai facendo qui al festival, proprio legato a questi argomenti. Entriamo nella strettissima attualità. Giampaolo Accardo, a te. Sì, allora vorrei cominciare con l'evento del giorno, insomma notizia del giorno, l'abbiamo sentito anche in apertura del GR, cioè l'uccisione da parte di ISIS, dell'esercito islamico in Siria e nel Levante, dell'ostaggio britannico Alan Henning. Il Times di Londra titola infatti Henning decapitato, un titolo secco che racconta tutto quello che c'è da sapere insomma su questo evento. Questo taxista di Manchester è stato quindi ucciso probabilmente l'altro ieri, il video è stato diffuso ieri in serata dall'ISIS ed è stato ucciso 3 settimane dopo essere stato rapito. Si trattava di un taxista che guidava un convoglio umanitario. Passiamo a un altro giornale britannico, The Guardian, che titola ISIS assassina l'ostaggio Henning. Il Guardian ricorda che era stato rapito 9 mesi fa in Siria e spiega anche che il Ministero degli Affari Esteri britannico sta verificando l'autenticità del video e dice anche il Guardian che il prossimo che ISIS minaccia di uccidere è un ostaggio americano. Passiamo a un altro quotidiano britannico, il Daily Telegraph, che questa volta, come potete vedere, fa la scelta di mostrare la foto di Henning accanto al suo boia. È una scelta che nelle redazioni, in quella di mostrare gli ostaggi accanto al loro boia, fa sempre molto discutere, perché la dignità dell'ostaggio viene messa in gioco da queste immagini, però sono anche immagini molto forti. Il Daily Telegraph ha fatto quindi questa scelta. Poi passiamo ai tabloid britannici, che hanno sempre dei titoli un po' sparati, no? Vedi qua il Sun per esempio, che titola il secondo britannico decapitato, e il Sun fa anche la scelta di citare il nome del suo probabile boia, cioè Jihadi John. Jihadi John è questo jihadista londinese, che sembra sia londinese, che è stato identificato quindi dai servizi britannici come un cittadino inglese che si trova in Siria. Un altro quotidiano, un altro tabloid britannico, il Daily Mail, che titola il secondo britannico è ucciso e decapitato. Il Daily Mail che anch'esso cita Jihadi John come il suo boia. L'altra Europa. Eccoci qua ancora a Ferrara, Festival di Internazionale, la nostra diretta dell'altra Europa. E torno da Hijaba Shego, scrittrice, narratrice, non solo. Qui a Ferrara stai facendo un laboratorio permanente con i ragazzi di Ok Media, chi sono? Allora, i ragazzi di Occhio a Media sono ragazzi ferraresi e adolescenti, alcuni hanno 20 anni, alcuni 16, e loro fanno un monitoraggio della stampa avvelenata, come la chiamano loro, o della stampa che pubblica a volte degli articoli razzisti. Il loro sito è www.occhioemedia.org e qui al Festival Internazionale stiamo praticamente intervistando alcune persone. Ieri abbiamo intervistato il genetista Guido Barbuglianni, oggi ci sarà Amir, i fotografi Simona Filippini, Rino Bianchi, l'attrice Esther Eliscia, insomma un viaggio dentro l'immigrazione, anche dentro le contraddizioni dell'immigrazione, però fatta da loro, fatta dai ragazzi, insomma è qualcosa che a me ha esaltato molto lavorare in questi mesi, perché sono stati mesi di preparazione e sono moltissimi, sono ragazzi musulmani, e questo lo vorrei dire perché appunto questa notizia della decapitazione è una cosa che ci fa orrore. Noi musulmani consideriamo queste persone dei nazisti, infatti non hanno niente a che vedere con noi, perché quando io vedo le notizie penso alla gioventù hitleriana, non penso a una persona che ha letto il Corano, e di solito queste persone non sanno nemmeno niente di religione, ma hanno dei simboli come la bandiera nera o come altro, no? I musulmani non sono così, anzi ci sono state in Europa, grazie a Dio, tantissime manifestazioni contro ISIS, una in Italia, a Milano, ricordata anche da Gad Lerner nel suo blog. Ok Media, questa analisi appunto dei giornali, ricerca dei temi razzisti, voglio fare un'assonanza su un occhio ai media per quello che riguarda il racconto dell'Europa. Davanti a noi c'è la postazione della Commissione Europea, quest'anno anche loro si sono presi in giro, hanno giocato su quello che è un po' un messaggio di fondo che c'è sotto a tante tematiche europee, cioè è tutta colpa dell'Europa. C'è una maglietta molto divertente che gira con questa vignetta, e abbiamo colpa anche noi che facciamo informazione ad amplificare questa cosa, è tutta colpa dell'Europa. Jacopo, per esempio, nelle vostre pagine europee, quando scegliete di cosa parlare, si sta attenti a questo punto di vista, cioè è più cool dire che è tutta colpa dell'Europa, o è più cool far vedere che ci sono anche opportunità, possibilità, o c'è altro? Cosa sia più cool non lo so. Io direi che noi facciamo molta attenzione a raccontare le storie europee in maniera articolata, a raccontare, Ijab prima parlava dell'Europa fortezza, in questa fase naturalmente a raccontare i problemi delle gente che vuole venire in Europa, della migrazione, Lampedusa e l'anniversario di ieri, però cerchiamo soprattutto di raccontare le realtà sociali dei singoli paesi e come queste comunicano e interagiscono con l'Europa politica e istituzionale. Quindi cerchiamo di raccontare tutti i paesi dell'Europa, anche quelli più piccoli, un po' più dimenticati, quelli dell'Europa orientale, dell'ex blocco del patto di Varsavia, che sono molto meno noti qui da noi. Cerchiamo di pubblicare giornali e fonti di tanti paesi, proprio per raccontare la realtà dei singoli paesi e come l'Europa lavora in questi paesi. Io penso che il tutta colpa dell'Europa lo smentisci raccontando la realtà concreta della vita delle persone, perché ricordiamoci sempre che l'Europa è fatta di singoli paesi, di singoli governi, e che le decisioni che prende l'Europa sostanzialmente sono le decisioni che prendono i governi europei che noi eleggiamo. Quindi in questo va sempre fattamente locale. L'Europa è un'istituzione che sostanzialmente deriva il potere anche dai suoi cittadini, e quindi le responsabilità sono anche dei cittadini. Gigi, con Radio 24 raccontate l'Europa quotidianamente, c'è il rischio di scivolare nella voglia di enfatizzare è tutta colpa dell'Europa? Ma credo che sia nell'ordine naturale delle cose, e anche ne abbiamo parlato, poi tu hai detto in questo caso dite e raccontate, tu dove sei? Qui racconti ogni settimana questa Europa in un programma che già si chiama L'altra Europa, quindi evidentemente ha cercato di andare oltre l'aspetto istituzionale. Di sicuro questa Europa che andiamo a raccontare è appunto fatta di una ricchezza enorme di sfaccettature. È un rischio che c'è, però francamente non lo trovo diverso rispetto a qualsiasi tema, e che stiamo spostando anche il fuoco della nostra attenzione dai governi nazionali a quelli europei, quindi bene, bene, soprattutto se questo vuol dire maggiore attenzione, maggiore partecipazione, detto così sembra appunto citazioni di ben più importanti, no? Poeti e cantanti del passato, però il punto è spesso lo stesso. Oggi le audizioni della Commissione che prima abbiamo citato sono un momento anche interessante, e mi rendo conto che chi ha la fortuna di farlo per lavoro poi viene pagato per ascoltare queste persone. Sono interessanti per vedere chi ci troveremo, è interessante vedere o magari ricordare che proprio il primo commissario respinto nella storia delle selezioni delle Commissioni Europee fu un italiano nel 2004, e perché fu respinto? Era Rocco Buttiglione, parlava di famiglia, di omosessualità, del ruolo della donna e di come fosse importante per le donne avere un uomo che le proteggesse nella costruzione. Ecco, bisogna appunto forse partecipare un po' di più a questo percorso. Quindi cambiamo magliette, è tutta colpa di Buttiglione, questo potrebbe essere la svolta europea. Prima di sfogliare le pagine, momento musicale ancora con Kiss and Drive. Elisabetta, ma perché hai scelto di andare a Bruxelles? È più facile suonare a Bruxelles che a Roma? Sì, ma io non lo sapevo prima, perché io sono andata a Bruxelles per fare uno stage e poi ho trovato un lavoro al Parlamento Europeo. Ah, qui non lo sapevamo, quindi anche tu sei della famiglia. Sono nella famiglia, però mi hanno diseredato perché me ne sono andata. Sei entrata con l'ukulele subito il primo giorno al Parlamento Europeo? No, all'inizio no, ero quasi seria, poi dopo un po' mi sono incrinata, ci sono state delle falle nella mia personalità e ho iniziato a suonare, a scrivere canzoni. A un certo punto ho detto, forse qualcun altro può fare meglio il mio lavoro con più passione. E io mi metto a cantare, va? A te il microfono. Don't be so hard on yourself, you say. Kiss and Drive, oggi all'Altra Europa in diretta dal Festival di Internazionale. Continuiamo con la rassegna stampa. Giampaolo Accardo, dove ci porti ora? Allora, andiamo in Svezia dove il nuovo premier Stefan Löfven ha presentato ieri il suo governo, un governo definito da Dagens Nyheter, quindi il giornale che vediamo qui, un governo femminista, almeno così piacerebbe far credere a Löfven. Il titolo di apertura è l'uomo sorprendente, un governo femminista perché è composto per metà di donne. Vabbè, questo in Svezia non è molto sorprendente forse, e fra le donne c'è Margot Wallström, che è una vecchia conoscenza di chi segue un po' gli affari europei, perché Margot Wallström era stato commissario europeo nella prima commissione Barroso, se non sbaglio. Si tratta di un governo di minoranza formato da socialdemocratici e verdi, è un governo anche, spiega Dagens Nyheter, abbastanza sorprendente, ecco, nella misura in cui soltanto 4 dei ministri hanno un'esperienza di governo. Ora passiamo a un altro giornale svedese, l'altro grande quotidiano svedese, lo Svenska Dagbladet, che invece titola Stefan Löfven dovrà lottare per imporre la politica dei socialdemocratici, e in effetti, essendo un governo di minoranza, con i Verdi come partner di governo, ma che dovrà appoggiarsi su altri partiti del Parlamento svedese, partiti che non sono per forza favorevoli alle politiche dei socialdemocratici, insomma, Löfven dovrà fare un po' fatica a imporre la sua politica. Altra cosa interessante che racconta Svenska Dagbladet è che ieri Löfven ha dichiarato che la Svezia riconoscerà lo Stato palestinese ed è il primo governo dell'Unione Europea a fare questo. Rimaniamo sempre in Svezia, ma con una fonte che non è svedese, è una fonte finlandese, Hufvudstadsbladet, che vuol dire il quotidiano della capitale, è un giornale di Helsinki ma in svedese, perché come sapete la Finlandia è un paese bilingue, finlandese e svedese, e Hufvudstadsbladet titola niente nato per la Svezia. Infatti Löfven, fra le altre cose che ha dichiarato nel momento quando ha presentato il suo governo, ha dichiarato che la Svezia non chiederà di aderire alla NATO, ma coopererà militarmente in maniera più stretta con la Finlandia, in particolare per quanto riguarda l'attenzione a quello che avviene in Russia. Bisogna sapere in effetti che ogni tanto i russi sorvolano, gli aerei militari russi sorvolano la Svezia, così per far vedere che tutto sommato lo possono fare. Ogni volta che Accardo dice "come sapete", ci sono brividi di ignoranza che scorrono almeno nelle mie vene, c'è il panico, cos'è che dovrei sapere? Vabbè, grazie Giampaolo come sempre, poi continueremo a sfogliare quotidiani locali, quotidiani europei, scusa. Cambio di ospiti fra pochissimo, prima di salutare Jacopo Zanchini e Gigi Donnelli, un'ultima domanda. Gigi, oggi è il compleanno di Radio 24, quale potrebbe essere un regalo che l'Europa potrebbe fare a Radio 24, o meglio a tutti noi? Cosa ci aspettiamo a Radio 24 adesso, in particolare una torta, di politiche, di grandi, ma sai, io sono sempre un po' fissato sul lato dell'educazione, quindi prima abbiamo citato Erasmus, ci credo molto, credo che alla fine sia quello il vero grande, la talpa, insomma, che entra nella società. Aggiungerei oggi sicuramente un altro tema: si parla tanto di immigrazione, sarebbe ora che l'Unione Europea si desse una politica africana, che non è la stessa cosa. Voglio dire, siamo attaccati, siamo vicini, ci sono tanti temi di reciproco interesse e anche degli obblighi che sono morali ma anche pratici ed economici. Quindi direi una politica africana reale per l'Europa è indispensabile. Terza cosa, mi viene una buona chiusura dell'accordo TTPI, a proposito di acronimi, sigle un po' difficili, però insomma ci sono degli accordi importanti che riguardano i rapporti euroatlantici, mettere le cose in chiaro su certi punti e in questo contesto tutelare anche quelle che sono le prerogative culturali, diciamo il welfare in senso lato europeo, penso che sarebbe un bel regalo anche per Radio 24. Grazie a Gigi Donelli. Un saluto anche a Jacopo Zanchini, che hai un evento adesso alle 11. Qual è la prossima tappa? Stai sfogliando con noi il programma? Adesso in corso, comincia alle 11, quindi tra poco, c'è l'amico invadente, appunto come cambiano i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti, con Bernard Guetta e David Riff, e abbiamo parlato di Europa fino adesso, il rapporto con gli Stati Uniti è un elemento fondamentale della politica europea, ne ha parlato Gigi poco fa, quindi secondo me sarà un incontro molto interessante. Un grazie a Gigi Donelli, un grazie a Jacopo Zanchini. Grazie. Ci fermiamo, la pubblicità, poi fra pochissimo ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. You should have made a move before. I'll get out again looking for someone who is not so scared as you. Have to hurry up. If not, I will and give up. Love vanishes into the blue. If you think about it too much, if you think about it too much. Ancora buon sabato da Federico Taddei e da Altra Europa. Siamo qui in diretta dal Festival di Internazionale Kiss and Drive, ha riaperto questa seconda parte. Cambio di ospiti, do il benvenuto a Eric Josef. Ciao Eric. Buongiorno. Sempre complicato presentarti, corrispondente in Italia di Liberation, questo è il tuo ruolo, poi scopriremo tutto ciò che combina Eric qui in Italia, con la penna e con la testa e non solo. Lee Marshall invece, uno che dalla vita ha capito tutto, perché inglese, è venuto in Italia, scrive di cinema, di viaggi, di tutto ciò che è il buon vivere, vero Lee? Ecco, verissimo. Proprio così, un elogio del godimento europeo. Ancora Ijaba Scego, ancora Giampaolo Accardo. Giampaolo, ti conoscevamo con Press Europe, questo progetto molto bello di traduzione quotidiana degli articoli più significativi della stampa europea. Quest'anno sei qui in veste leggermente diversa. Sì, beh, come sai Federico, ho detto di nuovo come sai, il Press Europe ha chiuso alla fine dell'anno scorso perché era finanziato al 100% dalla Commissione Europea, il contratto di finanziamento con la Commissione è finito e quindi Press Europe si è fermato, è rimasto fermo per un po', ma diversi giornalisti e traduttori che ci lavoravano si sono detti, beh sai che c'è, forse conviene continuarlo, visto che era un progetto valido, avevamo un sacco di lettori che ci hanno detto, ah ma peccato, perché chiudete, eccetera. E quindi a maggio il sito ha riaperto, ma con un altro nome, perché non potevamo tenere quello originale. Quindi adesso si chiama Vox Europe, ci sono tutti gli archivi di Press Europe, quindi tutto ciò che è stato pubblicato dal 2009 al 2013 è di nuovo accessibile ed è di nuovo aggiornato. Per ora siamo una squadra di una ventina di persone, tutti volontari, perché non ci paga nessuno per farlo, ma siccome pensiamo che è importante continuiamo a farlo, e dall'anno prossimo saremo in veste un po' più professionale, una volta che avremo raccolto dei finanziamenti, questa volta da parte di privati e di chiunque vorrà darci una mano. E partiamo proprio da qui, perché vorrei dedicare qualche minuto adesso anche con i nostri ospiti per parlare del come raccontare in maniera nuova, in maniera diversa questa Europa. E andiamo prima a sfogliare però le prime pagine che hai scelto ora. Sì, allora rapidamente con qualche notizia politica partiamo dalla Spagna, in particolare dalla Catalogna, con il Periodico, un quotidiano di Barcellona, che titola il blocco sovranista, cioè indipendentista piuttosto, salva l'immagine di unità. Voi sapete, l'ho detto di nuovo, che la Catalogna vuole tenere un referendum il 9 novembre sulla sua indipendenza, però il governo centrale di Madrid non è assolutamente d'accordo e la Corte Costituzionale spagnola ha sospeso il referendum. Ora i partiti che vogliono questo referendum, fra cui il partito al potere in Catalogna, si stanno un po' chiedendo che cosa fare e comunque vogliono dare un'immagine di unità e immaginano di tenere comunque una forma di consultazione, anche se non sarà formalmente un referendum. Dalla Spagna passiamo ai Paesi Bassi, ma anche al Medio Oriente, con The Telegraph, che è un quotidiano popolare al quale è abbonato mia mamma peraltro, che titola su un evento che riguarda il Medio Oriente: ISIS può abbattere gli F-16. I Paesi Bassi partecipano insieme ad altri paesi alla coalizione combattendo contro ISIS il Medio Oriente, e i servizi olandesi hanno scoperto che ISIS dispone di missili antimissile antiaerei di fabbricazione russa che potrebbero abbattere i suoi F-16, quindi sono un po' preoccupati. E chiudiamo questo giro andando in Russia con Nezavisimaya Gazeta, un quotidiano di Mosca, che titola sullo stato esplosivo dell'economia russa. Il presidente Vladimir Putin, che vedete nella foto di apertura, parlava a un convegno con degli imprenditori russi e ha voluto tranquillizzarli sugli effetti delle sanzioni europee e americane, dicendo che l'economia russa tutto sommato non subisce troppo le conseguenze. E ha invitato gli uomini, i businessmen russi, a continuare comunque la loro attività e non preoccuparsi. Dice anche che il clima nel settore degli affari è migliorato, anche se ha dovuto ammettere l'inflazione è leggermente aumentata. Grazie a Giampaolo Accardo. Lee Marsal, questa notizia sulla Catalogna porta immediatamente comunque a quello che è successo al referendum scozzese, che sicuramente avrai seguito. Com'è stato il racconto di quel pezzo della storia dell'Europa? Ma diciamo, forse la cosa positiva che è venuta fuori è che Gran Bretagna, che non ha avuto una grande, diciamo, tradizione di partecipazione democratica alle elezioni di nessun tipo, soprattutto il calo maggiore si registra sempre con le elezioni europee, purtroppo, dove l'affluenza si aggira sul 30%. In questo caso c'è stata una partecipazione massiccia sia da parte degli inglesi, diciamo, che seguivano con ansia l'argomento, sia chiaramente da parte dei scozzesi, anche i giovani, perché ricordiamo che nel referendum erano ammessi al voto anche i sedicenni e i diciassettenni per la prima volta. E lì c'è stato un grosso, per esempio, il ruolo dei social media nella che devo dire è proprio la campagna del sì, cioè la campagna per l'indipendenza, che poi è risultato perdente, è stato più bravo a gestire questo lato nuovo dei social, e non a caso in quella fascia d'età il 70% ha votato sì. Quindi è interessante questa cosa di come un dibattito democratico europeo passa anche attraverso questi canali. Canali nuovi anche per raccontare questa Europa, ed è anche l'avventura, Enrique, che avete lanciato con Eutopia. Che cos'è? Eutopia è appunto l'utopia di voler rianimare il dibattito di idee in Europa, cioè di cercare di capire veramente quale Europa vogliamo, quale Europa rispetto al tema dell'immigrazione, rispetto al tema del sistema sociale, quale sistema sociale, come i cambiamenti delle forme democratiche possono cambiare l'Europa e come l'Europa possa appunto sfruttare queste nuove possibilità democratiche. Oggi, in questo periodo, ci riflettiamo su quale città europea. L'Europa tradizionalmente ha una concezione della città fino alla città ideale, da Pienza a tanti altri esempi, e come appunto la città europea, la concezione della città europea si confronta con la globalizzazione, con la modernizzazione, con la creazione di megalopoli. C'è tra l'altro un testo di Emanuele Orazzi, che è professore a Bologna, che racconta appunto che in qualche maniera l'Europa è l'unica l'unico continente dove non c'è una megalopoli di più di veramente 10 milioni di abitanti, e riflette sull'idea che in realtà forse l'Europa è la prima città continente, nel senso che sono tante piccole città sempre più legate tra di loro, e dunque e c'è una forma nuova anche di pensare la modernizzazione attraverso la città. E dunque è utopia che questo magazine online gratuito creato all'iniziativa di 4 case editrici europee, di cui la terza in Italia, Fischer in Germania, Soy in Francia e Debatte in Spagna, e appunto con questa idea di affrontare insieme i temi che riguardano tutti i cittadini europei, o almeno di creare, di facilitare la formazione di un'opinione pubblica europea. Poi ovviamente parliamo anche di temi più di attualità, ad esempio del referendum scozzese. Io vorrei aggiungere qualcosa su quello che ha detto lì. È vero che senz'altro i social network hanno avuto un ruolo molto forte per la mobilitazione, per la partecipazione, però l'elemento forte secondo me è il fatto che in questo voto il cittadino aveva la sensazione di avere veramente presa sulle decisioni, che il suo voto contava, che poteva avere una conseguenza. E oggi uno dei crisi della democrazia è il fatto che molto spesso il cittadino ha la sensazione che il suo voto non serve a nulla, e per questo che c'è bisogno di ripensare le istituzioni europee in modo che veramente il voto dei cittadini abbia in qualche maniera un'influenza sulla vita appunto quotidiana dei cittadini. Igiaba, un minuto, poi dobbiamo dare il traffico, un minuto anche per salutarti perché fra pochissima è anche tu un evento, un minuto per dire che cos'è per te oggi in Europa il valore della memoria, che so che è una cosa a cui tieni tanto. No, io stavo pensando anche alle parole di Eric e di Lee, e io penso che l'Europa la possiamo costruire nelle scuole e soprattutto attraverso la memoria di quello che è successo nel passato. Noi viviamo in un paese che ha un monumento a un criminale di guerra fascista, Rodolfo Graziani, ad Affile. È come se in Germania costruissero un monumento a Himmler, è terribile. Io sto facendo un laboratorio che si chiama Al Tasso, e lo farò in altre scuole di Roma, che si chiama Coloriamo la storia, per far vedere come la storia d'Europa è stata sempre meticcia. Comincio sempre con un ritratto, quello fatto dal Pontorno, di Giulia de' Medici, bambina, appunto, che era la prima italiana, insomma, e quindi l'Europa è anche questo, è stato un meticciato culturale molto forte. Il libro tuo che presenti qui a Ferrara? Lo presento con due fotografi, sono due libri, Roma negata sul colonialismo e percorsi coloniali in città a Roma, e Rome Love con un racconto d'amore, incredibilmente. Lo presentiamo alle 17:30 l'Apollo 4 qui a Ferrara con i due fotografi, perché sono due testi di foto e letteratura. Nuovo genere. Perfetto, un grazie, un ciao a Igiaba Scego, grazie per essere stata con noi. Ancora le informazioni sul traffico, poi ancora qua in diretta per l'ultima parte dell'Altra Europa. L'Altra Europa. Ancora l'Altra Europa, ancora al Festival Internazionale a Ferrara. Do il benvenuto a Bartosz Panek, giornalista della radio polacca Polskie Radio. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto, grazie per l'invito. Dzień dobry. Protagonista oggi di diritti nel movimento, mobilità, turismo sociale, protezionismi nazionali in Europa alle 11:30, quindi fra pochissimo, ci porti in quello che è un po' un filo comune con gli altri ospiti, cioè raccontare l'Europa anche attraverso la cultura, attraverso i viaggi, attraverso le storie, attraverso il cinema, che è quello che fai anche nel tuo programma radiofonico. Sì, il secondo canale della Radio Polacca dedicato alla cultura, e rifletteremo, spero, soprattutto se Europa deve rimanere una casa per tutti, o forse meglio se diventa una fortezza. Per esempio, può essere anche utile fare un'idea se l'Europa può essere sia una casa per tutti, sia una fortezza, perché devi sempre avere le chiavi a questa casa che vuoi costruire. Chi debba avere questa chiave è la mia idea. Ok, questa è la suggestione per l'incontro che ci sarà fra pochissimo qui a Ferrara. Lee Marsal, un racconto dell'Europa attraverso il cinema, che è una suggestione bella. Tu hai detto che potresti fare tutto il festival parlando solo di cinema ed Europa, perché appunto si racconta l'Europa sui giornali, sui portali, su quelli che sono canali più o meno ufficiali di informazione e formazione. Il cinema dove si colloca in questo flusso di, appunto, di incontro, di confronto? Ma già, per esempio, anche per motivi commerciali ci sono, perché non abbiamo in Europa le risorse di Hollywood, ci sono tanti coproduzioni che portano attori tedeschi, registi inglesi, tecnici italiani a lavorare insieme. Quindi già questa è una bella realtà che costruisce un'Europa. Poi c'è il fatto che io vedo, frequentando i festival come Cannes o Berlino o Venezia, che tanti nuovi territori che vengono fuori a livello cinematografico, come c'è stato una decina d'anni fa, fino a 5-4 anni fa, l'esplosione del cinema romeno, chiaramente d'autore, che sfata tanti miti su come sono i rumeni, cioè una cinematografia di una sofisticazione, di una bravura che sfiora, per esempio, con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, che sfiora Hitchcock nella bravura con cui concilia il noir con tematiche sociali, eccetera, oppure più recentemente la nuova cinema greca, che un po' sfata tutti i miti negativi della crisi, o forse è vero che una crisi sprigiona la creatività, non lo so, però questi sono due esempi di come il cinema può anche remare contro certi stereotipi. Ti hanno mai chiesto di fare l'attore in qualche film? Una volta Marco Bellocchi è venuto a casa mia per fare una prova. È andata male la prova? Poi pare di sì. Okay. Cioè, più che altro non ha anche fatto la prova. Lui mi ha guardato e no. vabbè, nulla di personale però. Eric, un'ultima domanda anche a te. Di cosa non si parla abbastanza per scaldare un po' l'Europa? Al di là delle analisi politiche, delle analisi sociali, secondo te c'è una nicchia inesplorata? Sì, assolutamente. È il fatto di dire, ma questo tocca a noi giornalisti di farlo, di raccontare quanto i nostri politici nazionali ci raccontano molto spesso balle, il re nudo. E questo il fatto che noi facciamo finta di credere a quello che dicono. Il problema è che non hanno più gli strumenti politici. Quando Hollande arriva in campagna elettorale e dice: io, se sono eletto, farò la lotta contro la finanza internazionale, io penso che c'era un elemento di sincerità, di volontà. Poi arriva l'Eliseo, dove il capo dell'esecutivo francese è quello che ha più poteri, arriva impotente e dunque crea frustrazione. Quando il Presidente del Consiglio, io leggo i giornali stamattina, Matteo Renzi dice: ah, ma è che l'Europa deve voltare pagina. D'accordissimo, ma come fa? Come fa per fare voltare pagina? Cioè, allora si può dire alla Germania: che fai, mi cacci? Come un po' ha fatto Hollande adesso, dicendo: ah, ma non rispetteremo i parametri. Si può andare a discutere di avere invece del 4,3% o invece del 3%. No, la verità è che bisogna cambiare le regole. E questo, il nostro ruolo, penso, di giornalisti oggi è di raccontare questo, di dire che ci raccontano, ci fanno credere che le nostre potenze europee sono ancora forti, mentre non è più vero. Vogliamo intervenire, parlavamo prima dell'Iraq e della Siria, vogliamo intervenire anche militarmente, non abbiamo più quasi gli aerei. Cioè non c'è più la potenza come una volta, dunque, sia da tutti i punti di vista, e questo è il nostro ruolo, se vogliamo veramente anche in parallelo cercare di raccontare, di avere una narrazione dell'Europa, certo. Di dire che non soltanto siamo in Europa perché ci conviene di essere tutti insieme, ma perché abbiamo tanti elementi comuni che fanno che abbiamo un modello appunto di città, parlavamo, lo vediamo qui a Ferrara, modello economico sociale, dei sistemi sociali, il 50% delle spese sociali nel mondo sono in Europa. Dunque questo, noi abbiamo degli elementi in comune e dobbiamo raccontare in parallelo che i nostri leader nazionali ci raccontano a balle e che possiamo inventare un altro percorso. Grazie Eric. Giampaolo Accardo, 10 secondi per l'ultima prima pagina. Cielo, allora andiamo velocissimamente in Francia con Libération, grande quotidiano di sinistra francese, dice che la notte è minacciata a Parigi. Oggi a Parigi, in Francia c'è la notte bianca, però dice Libération, alla gente dà un po' fastidio tutto il chiasso che fanno i nottambuli e quindi Parigi si dirige verso una vita notturna molto più tranquilla. Volevo concludere con una notizia portoghese. In Portogallo l'Arabia Saudita assume dei medici portoghesi e li paga 11.000 euro al mese. Ok, perfetto. Grazie davvero. Chiudiamo con Kiss and Drive. Un grazie ai nostri ospiti. Buon compleanno a Radio 24. Questa è stata la diretta dal Festival di Internazionale. Vai, Kiss and Drive. Titoli di coda di questa puntata. Grazie a tutta la squadra di Radio 24 per essere stati qua anche quest'anno. Ciao. Da dove vieni e dove vai, ma come non lo sai. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.